In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri. Silenzio assordante, lucida follia, illustre sconosciuta, convergenze parallele, questi sono degli esempi di ossimoro, figura retorica che consiste nell'accostamento di due termini in senso contrario, in antitesi tra loro, apparentemente incompatibili. Io adoro l'ossimoro, ho riempito le mie canzoni di ossimori, e chi usa l'ossimoro sceglie deliberatamente questa combinazione di parole in contrasto tra loro per creare degli effetti sorprendenti, per attirare l'attenzione del lettore, dell'interlocutore, a volte anche per dare un nome a una realtà che ancora non possiede un nome. E questo è il nostro caso di oggi, perché noi oggi raccontiamo la vicenda di un uomo straordinario che possiamo definire un ossimoro vivente, perché la definizione di chi lui sia in realtà è composta da due parole che normalmente non possono essere accostate, che non vivono mai assieme nella stessa frase. Quello che lui ha creato è diventato qualcosa di assolutamente inedito, sì, perché il nostro protagonista di oggi si è autodefinito il banchiere dei poveri. Capite bene l'ossimoro contenuto in quella che è la sua missione di vita. Avvicinare le parole banchiere e povero è qualcosa di unico. Il nostro protagonista di oggi è il professor Mohamed Yunus, economista del Bangladesh, fondatore della Grameen Bank, che è la prima banca dei poveri, è quello che ha inventato il microcredito moderno. È stata un'intuizione geniale, di enorme impatto umanitario, e peraltro grazie a questo gli hanno conferito giustamente il premio Nobel nel 2006, premio Nobel per la pace, per il suo sforzo diretto a promuovere lo sviluppo economico e sociale dal basso. Ero un insegnante di economia. Ero appena rientrato dagli Stati Uniti, dove avevo lavorato per un certo periodo, e avevo iniziato ad insegnare all'Università del Bangladesh. Il paese era nel pieno di una terribile carestia, la gente moriva di fame, e io mi sentivo malissimo ad insegnare eleganti teorie di economia in classe, mentre fuori la gente moriva. Iniziai a ritenere che le cose che insegnavo non avessero alcun significato. Pensavo, devo andare fuori, stare con la gente, vedere se posso essere utile a loro piuttosto che parlare di cose vuote in classe. E così andai nel villaggio di Jobra, non lontano dal campus. La gente si faceva prestare piccole somme dagli usurai e gli usurai prendevano il totale controllo delle loro vite. Sfruttamento estremo. Feci una lista di persone che avevano avuto dei prestiti dagli usurai per capire di che cifra stavamo parlando. C'erano 42 persone nella mia lista e la cifra totale che avevano avuto in prestito era $27. Pensai, mio Dio, per una cifra così piccola le persone devono soffrire così tanto. $27, avete capito bene, questo è il totale dell'ammontare del prestito che 42 persone povere, affamate, indigenti hanno ottenuto da un usuraio locale. Hanno messo le loro vite nelle sue mani praticamente per sempre. Si innesca un meccanismo perverso di rimborso degli interessi. Lo sapete cos'è l'usura, immaginate cos'è l'usura lì in Bangladesh. Ti vincola a vita, è un circolo vizioso che ti porterà solo alla povertà più assoluta, quasi sempre alla morte. E Mohamed Yunus ha scoperto questa realtà assurda e atroce. Ripeto, 42 persone che in totale avevano avuto in prestito $27. Questi $27 li avevano vincolati per sempre. E lui, Yunus, comincia a coltivare il suo sogno. È un pensiero straordinario che si trasformerà in una speranza per un intero popolo. Mohamed Yunus nasce il 28 giugno del 1940 a Chittagong, che è il maggior porto del Bangladesh. Siamo sul golfo del Bengala. Il Bangladesh confina con l'India, con la Birmania, una volta era territorio indiano, uno dei paesi più popolati del mondo, uno di quelli col più alto tasso di povertà, peraltro paese anche flagellato da continue inondazioni e conseguenti carestie. Yunus però non è povero, la sua è una famiglia, per essere lì, insomma, abbastanza benestante. Il padre è un orafo, lui è il terzo di 14 fratelli, ma comunque riesce a studiare, si laurea in economia, che è la materia che ha sempre ritenuto molto affascinante. E poi si sposta negli Stati Uniti e lì ottiene il dottorato di ricerca in economia presso l'università Vanderbilt a Nashville, nel Tennessee. Siamo nel 69. Poi per alcuni anni insegna alla Middle Tennessee State University. Poi nel 72 decide di rientrare nel suo paese, diventa direttore del dipartimento di economia dell'università del suo paese di Chittagong. La sua esistenza è, tutto sommato, è quella di un privilegiato in un paese povero e sofferente, cambierà radicalmente verso la metà del 74, perché lì, in quel momento, il Bangladesh viene colpito da l'ennesima violenta inondazione e la conseguenza è una grave carestia che causa la morte di centinaia di migliaia di persone. Per la prima volta in vita sua, Yunus è costretto a porsi delle domande. Provavo sempre una sorta di ebbrezza quando spiegavo ai miei studenti che le teorie economiche erano in grado di fornire risposte a problemi economici di ogni tipo. Ero rapito dalla bellezza e dall'eleganza di quelle teorie. La mia aula mi appariva come la scena di un film, in cui ci si poteva rilassare, perché tanto si sapeva che alla fine i buoni avrebbero vinto. Quando facevo lezione, sapevo fin dal principio che ogni problema avrebbe avuto un'elegante soluzione. Ma quando uscivo dall'aula, mi dovevo confrontare con il mondo reale, dove i buoni venivano spietatamente calpestati e sconfitti. La realtà quotidiana peggiorava continuamente, i poveri diventavano sempre più poveri. Per loro, morire di fame sembrava essere l'unico destino. E questo era un brano tratto dal libro che Mohamed Yunus scrive nel 97, intitolato Il banchiere dei poveri. Lì descrive intanto la terribile carestia del 74 che segna drammaticamente il Bangladesh, con la stampa internazionale che riporta notizie terrificanti sulle morti per fame nei villaggi, con le città che vengono invase da orde di persone affamate. Un momento drammatico della storia, non del Bangladesh, del mondo. Figure più scheletriche che umane, flusso ininterrotto di gente disperata che si riversa nelle strade, è quasi impossibile distinguere i vivi dai morti, sembrano tutti uguali, uomini, donne, bambini, con l'età difficile da definire, perché i vecchi sembrano dei bambini e i bambini hanno già le sembianze dei vecchi. Non è possibile non vedere la tragedia, non vedere gli affamati, perché sono dappertutto, sono distesi a terra, sono tranquilli. Il fatalismo di quei posti arriva fino al momento estremo, non protestano, non chiedono, non condannano quelli che hanno da mangiare, sono lì tranquilli presso le soglie delle case di quelli meno disperati. E Yunus racconta: si può morire in tanti modi, ma la morte per fame è la più inaccettabile, in modo lento, terribile. Ogni minuto che passa si accorcia la distanza tra la vita e la morte, che arriva inesorabile, senza rumore. E tutto questo magari accade perché una persona non ha neanche un pugno di cibo col quale nutrirsi. È veramente intollerabile in un mondo dove c'è così tanta abbondanza che ci sia qualcuno che non ha diritto neanche alla sopravvivenza. E per superare questo senso di impotenza che lo invade, Yunus tenta di ridefinire il suo ruolo. Cioè, non può aiutare tutti, però lui sente di poter essere utile, sente di poter fare qualcosa che rappresenti un aiuto, magari piccolo ma concreto. 21, sei un economista e abituato a analizzare le situazioni nell'ambito economico, dal punto di vista tecnico. E questo è quello che fa anche in questo caso drammatico. La sua conclusione, che la povertà del suo popolo non è dovuta all'ignoranza e neanche alla pigrizia, è dovuta alla mancanza di opportunità, al sostegno che non c'è da parte delle strutture finanziarie del paese. E comincia a parlare di popolo bonsai, questa è una sua definizione, gente con grandi possibilità tenute in condizione di non potersi espandere e crescere, proprio come capita ai bonsai, che sono alberi che nascono e si sviluppano in quel modo per le costrizioni, tenuti volutamente in piccoli vasi proprio per rimanere in miniatura. Però le persone non sono alberi, dice Yunus. E così inizia, parte veramente con poco, il suo progetto di banca dei poveri che lo porterà così lontano. Parte da quei 27 dollari, il suo primo prestito a un gruppo di donne del villaggio di Yobra vicino alla sua università, donne che producono mobili in bambù, che sono costretti a vendere i prodotti del loro lavoro alle stesse persone dalle quali comprano la materia prima, guadagnando una cifra talmente irrisoria che di fatto le condanna alla povertà più estrema, anche perché non hanno alternative, non hanno niente, non hanno soldi per comprare il bambù grezzo da altri fornitori, e ovviamente nessuna banca le finanzierebbe mai, perché sono progetti troppo piccoli, ritenuti progetti con possibilità di profitto bassissime e a fronte di rischi molto alti, e le banche, sapete, non hanno cuore. Nessun istituto di credito bengalese in più darebbe mai un prestito a una donna, perché proprio non c'è questa opzione nella cultura di quel paese. Yunus decide di guardare con occhi nuovi e ribalta completamente la situazione. And people ask me, how did you figure this out? La gente mi chiedeva, ma come pensi di fare? Beh, non sono per le cose complicate, sono un tipo semplice io. Ho solo guardato le banche convenzionali. Ho visto come facevano loro e una volta che ho capito tutti i passaggi che facevano loro, ho semplicemente fatto l'esatto opposto. E ha funzionato. Loro vanno dalla gente ricca, io sono andato dai poveri. Loro vanno dagli uomini, io sono andato dalle donne. Loro per fare affari vanno nel centro delle grandi città. Io sono andato nei villaggi più remoti. Loro pretendono un tasso di interesse. Io me lo sono dimenticato. Non puoi andare dai poveri a chiedergli gli interessi. Loro hanno grandi avvocati. Io ho detto, non mi servono avvocati. Voglio creare l'unica banca al mondo senza avvocati. E funziona. Non ci servono. It works. We don't need them. E potete immaginare anche le difficoltà di approccio, andare in un villaggio e chiedere di parlare con le donne era una cosa totalmente inconcepibile in quei luoghi. Si racconta per esempio di volte che Yunus spiegava le cose separato da un muro, con le donne che lo ascoltavano dall'altra parte del muro. E insomma, lui ha una visione completamente nuova. Le banche tradizionali, per esempio, di solito vogliono conoscere tutto dei loro clienti, vogliono sapere chi sono, cosa hanno fatto, quali sono le loro credenziali, il loro passato, in realtà le loro garanzie. E sapete, Mark Twain diceva, la banca è qualcuno che ti dà l'ombrello quando ha smesso di piovere. E Yunus invece è interessato al futuro di queste persone, a quello che loro vogliono diventare, è interessato ai loro sogni. E così, su queste basi rivoluzionarie, nasce la Grameen Bank, letteralmente la banca del villaggio. È un istituto piccolo ma concepito bene. Yunus e i suoi collaboratori, che cominciano a girare a piedi per i villaggi del Bangladesh, offrono prestiti per pochi dollari alle comunità, superano le diffidenze. Stiamo parlando di somme minime che servono per avviare delle piccolissime iniziative imprenditoriali. È una ventata di ossigeno per una popolazione che sta annaspando per sopravvivere. La Grameen Bank, prima banca al mondo a effettuare prestiti ai più poveri si basa non sulla solvibilità ma sulla fiducia. L'impatto sociale è veramente rilevante, anche perché la quasi totalità dei beneficiari dei prestiti è composta da donne. Lui ha capito che in quel tipo di società il motore vero, anche se silenzioso, sono le donne. Fa una scommessa assolutamente in controtendenza. Le banche del Bangladesh non stanno considerando le donne come degli interlocutori. Esistono delle agenzie per signore, ma sono una specie di ente previdenziale per accogliere i risparmi, ovviamente solo della minoranza di donne con denaro. E se una donna si rivolge a una banca, il funzionario chiede immancabilmente di poter parlare con suo marito, anche se arriva una donna ricca. Insomma, quella di Yunus è veramente una rivoluzione pacifica che ovviamente gli crea parecchi problemi. Se mi chiedete quali difficoltà ho avuto, vi rispondo: la difficoltà è stata la mentalità. La gente non ama cambiare il proprio modo di pensare. Il diverso semplicemente non funziona. E io stavo pensando in maniera completamente diversa. E così ogni volta era un dramma. Le banche mi dicevano: è impossibile, le banche non fanno questo. Ma certo, lo so che le banche tradizionali non fanno questo. Un dramma. Quando andavo dalla gente povera, dicevo loro: prendete questi soldi per avviare una vostra attività. Mi rispondevano: no, no, non mi servono i soldi, non ho mai maneggiato soldi, non li voglio. Quindi la reticenza non veniva solo dalle banche, ma anche dagli stessi poveri, dalle donne, che non volevano prestiti. E così devi creare un rapporto di fiducia, andare per gradi e superare tutti gli ostacoli. E le difficoltà che incontra non fermano il nostro protagonista. Per adesso il progetto di Yunus è un progetto sperimentale, si sta rivolgendo ai villaggi più vicini, avvalendosi di collaboratori volontari, soprattutto dei suoi studenti. Finalmente nel 77 riesce a ottenere dalla Krishi Bank la gestione di una filiale, che ha una natura assolutamente anomala rispetto a quello che si conosce fino a quel momento. Gli istituti di credito tradizionali normalmente prevedono che siano i clienti a recarsi in agenzia per chiedere un prestito. Nel modello Grameen invece sono gli operatori della banca che raggiungono le persone nei loro villaggi, perché c'è questa soggezione da parte della gente povera a entrare in una banca e si viene considerata, insomma, un nemico, e non hanno neanche tutti i torti. Insomma, lui mira a creare un rapporto paritario tra il funzionario di banca e il cliente, è un modo per evitare ai poveri di trovarsi a disagio. Un povero analfabeta non può entrare in un ufficio che interpreta come luogo minaccioso, la distanza è incolmabile. Ascoltate cosa arriva a fare lui. Per dimostrare che anche la persona più povera può diventare un imprenditore, ho deciso di prestare soldi ai mendicanti. Non esiste qualcuno più povero di un mendicante. È l'ultimo gradino nella scala dell'esistenza umana. Mi sono detto: proviamo. E così abbiamo iniziato a parlare ai mendicanti. Quando vai di casa in casa mendicando, potresti portare qualcosa con te, tipo dei dolcetti, delle caramelle, dei piccoli giocattoli per i bambini. Non si tratta di un lavoro, ma di dare alla gente più opzioni. Se non ti vogliono dare niente in cambio di niente, puoi provare a vendere loro qualcosa. Potrebbero comprare da te o darti qualcosa da mangiare in cambio. Così ti ritroveresti ad avere due attività invece di una sola. Il programma mendicanti della Grameen Bank ha un successo travolgente. Nel giro di pochi mesi sono migliaia quelli che si cimentano in questa nuova visione della loro condizione miserrima. A distanza di qualche anno il risultato è che molti smettono di chiedere l'elemosina per strada per iniziare un'attività, anche piccolissima, ma un'attività in proprio. Yunus lo ha definito un piccolo risultato per un grande sogno. Il falco e il gabbiano. Il Il nostro protagonista di oggi è l'economista bengalese Mohamed Yunus, nato e vissuto in uno dei paesi più poveri del mondo, il Bangladesh, paese devastato da calamità naturali, da terribili carestie, un paese che non ce la fa, l'indigenza, la malnutrizione, ma anche e soprattutto lo sfruttamento dei più deboli è un fenomeno all'ordine del giorno. La maggioranza della popolazione vive al di sotto della soglia minima di sopravvivenza. Yunus però ha il suo sogno: fare sparire per sempre dal Bangladesh la povertà, e così negli anni 70 fonda la Grameen Bank, letteralmente la banca del villaggio, la prima banca di poveri, la prima banca di poveri al mondo, e trova il modo di fornire a questi disperati gli strumenti per uscire dalla miseria, perché dà loro dei piccolissimi prestiti ai diseredati della terra. Prestiti senza interessi ai poverissimi, soprattutto alle donne, a quelli che non avrebbero mai potuto ottenere finanziamenti dagli istituti di credito tradizionali, gente che è stata falcidiata dall'usura, e lui li aiuta a uscire da questo incubo, a allargare la loro economia, a prendere in mano il loro destino, e inventa il cosiddetto microcredito moderno. È una intuizione geniale, di grande impatto umanitario, che gli va nel 2006 il premio Nobel per la pace, motivazione per il suo sforzo diretto a promuovere lo sviluppo economico e sociale dal basso. Un progetto non facile, sembrava un'utopia, un progetto che gli ha creato ovviamente diversi problemi anche nel campo religioso e politico. I capi religiosi mi hanno detto che quello che faccio è contro l'Islam, dare soldi alle donne. Io ho discusso con loro. Il profeta Maometto ha sposato una donna d'affari. E allora, perché siete contro le donne in affari? Se vuoi essere un buon musulmano, dovresti sposare una donna in affari. Dovresti seguire le orme del profeta. Ho avuto anche problemi con i politici, che vedono nel mio progetto qualcosa che può distruggere le loro idee. L'estrema destra ci ha accusato di essere un movimento comunista, di organizzare i poveri. Invece l'estrema sinistra ha detto che siamo un movimento capitalista, che sta cercando di distruggere il futuro del socialismo. Ciascuno dà la propria interpretazione di qualcosa che non è mai esistita prima, la valuta dal suo punto di vista, e io sto nel mezzo di tutto questo. Opposizioni religiose, politiche, tradizione. Ma io non mollo mai, vado avanti. E beh, quando ti attaccano dall'estrema destra e dall'estrema sinistra e da tutte le parti, vuol dire che sei scomodo, vuol dire che hai ragione generalmente. Infatti lui non molla, in tutti questi anni continua ininterrottamente a portare avanti il progetto della Grameen Bank, che si è ingrandita, che si è trasformata, non è più solo un istituto di microcredito, è diventata anche un ente previdenziale, comincia a offrire mutui per la casa o per realizzare impianti di irrigazione, moderni sistemi di pesca. E il suo successo peraltro ha ispirato molti esperimenti del genere in altri paesi, almeno una ventina tra i paesi sottosviluppati o in via di sviluppo. Ha dato il via a progetti, quelli che si chiamano social business, attività imprenditoriali e anche aziende che però si ispirano a dei criteri di giustizia sociale, che vogliono migliorare le condizioni di vita di popolazioni, dei poveri, degli svantaggiati del pianeta. I numeri della Grameen Bank sono interessanti, perché oggi si parla di oltre 1000 filiali nel mondo, di 13.000 dipendenti, 2 milioni di clienti peraltro, e di questi 2 milioni il 94% sono donne. E l'organizzazione, attenzione, non è affatto in perdita, perché il 98% dei prestiti viene regolarmente restituito. E questi enormi successi, questi riconoscimenti lo portano al Nobel per la pace. Lui peraltro rimane perplesso, perché si aspettava al limite un Nobel per l'economia, però il comitato del premio Nobel ha voluto dimostrare di volere ampliare il senso della parola pace. Con essa si intende non solo la risoluzione di conflitti armati, ma anche sviluppo delle condizioni che rendono possibile mantenere la pace, cioè la difesa dei diritti umani. Naturalmente i problemi non gli sono mancati, qualche nemico se l'è fatto anche lui. Un attacco infamante, per esempio, gli arriva da lontano. Nel novembre del 2010 un documentario norvegese riporta risultati di una fantomatica indagine effettuata sui conti della Grameen Bank e anche sulla persona di Yunus. Si evincerebbe una presunta evasione fiscale. Il 2 marzo del 2011 Yunus viene sollevato dal suo incarico di amministratore delegato, subisce un linciaggio mediatico, lo si incolpa di succhiare il sangue dei poveri, tutte accuse totalmente infondate, verrà scagionato completamente da queste fake news, come si direbbe oggi, accuse probabilmente che erano state messe in circolo da oppositori politici, da chi lo combatteva da anni, anche perché c'è tutto un movimento di pensiero che non vuole che le donne bengalesi si affranchino dagli uomini, possano tornare a guadagnare. E dietro a questa macchinazione ci sarebbe addirittura una fazione governativa bengalese che mirava a prendere il controllo dell'ambito creditizio, diciamo, dei poveri. E la risposta di Yunus non tarda ad arrivare. Il 25 settembre 2011 esce un docufilm, Bonsai People, The Vision of Mohamed Yunus, dove lui espone la sua avvincente teoria sulla condizione umana. Cerca l'albero più alto della foresta e prendi il suo seme migliore, poi piantalo in un vaso da fiori. Otterrai una pianta alta al massimo un metro, una replica perfetta dell'albero che avevi visto nella foresta, ma in miniatura. Ora, che problema ha l'albero piccolo? È colpa del seme? No, abbiamo preso il seme migliore dell'albero gigante e lo abbiamo piantato bene. Quindi, cos'è che non va? La cosa sbagliata è il vaso da fiori, perché non è una base adeguata sulla quale l'albero poteva crescere. Se tu avessi piantato il seme nel terreno, sarebbe diventato un albero grande, esattamente come quello della foresta. Vedete, i poveri sono gente bonsai. La società non fornisce loro la base. Beh, è una metafora bellissima questa di Mohamed Yunus, l'idea che la società debba fornire terreno fertile affinché tutti, anche i più sfortunati, possano espandere le loro radici e dare il colpo d'ala, quello che noi chiamiamo così, qualcosa che in fondo non costa molto, solamente $27 era la piccola cifra iniziale da cui tutto è partito, cifra che ha colpito l'immaginario collettivo di quelli che sono venuti in contatto con la storia straordinaria di Mohamed Yunus. Tra gli altri, la compositrice Paola Samoggia, che ha realizzato un'opera lirica intitolata proprio $27 su libretto di Rita Forlani, opera ispirata al libro di Yunus, Il banchiere dei poveri, verrà rappresentata per la prima mondiale, presenti tutti, il presidente Mattarella e tutti, il 20 maggio a Fano con Andrea Miro, direttore d'orchestra. Insomma, dal microcredito alla lirica, dimostrazione che non esistono confini quando si sogna, che Mohamed Yunus ha saputo sognare, ha saputo realizzare un mondo migliore, un mondo con una speranza anche per gli ultimi e per i diseredati della terra. Il falco e il gabbiano. Mohamed Yunus ha creato indubbiamente qualcosa di speciale, però è comunque un economista e lo sappiamo, l'ambito economico non è qualcosa di intuitivo, non ci si improvvisa economisti, bisogna avere molte competenze, bisogna essere al corrente anche di nozioni magari anche difficili per capire veramente bene cosa sia, per esempio, il microcredito, cosa significhi sviluppare questo tipo di attività bancaria in un paese peraltro particolare, sottosviluppato come il Bangladesh. Cosa significherebbe, se possibile, se servisse, portarla da noi? Insomma, avete capito che io più di tanto non posso andare, ho bisogno di una mano per districarmi in questi meandri economico-sociali. Noi però, insomma, a Radio 24 siamo fortunati anche perché abbiamo un'esperta non solo di economia e di finanza, una bravissima e bellissima giornalista capace di spiegarci anche con parole facili argomenti spesso ostici, per esempio le leggi che cambiano, insomma il rovescio della medaglia e i rovesci della borsa. E sto parlando ovviamente di Deborah Rosciani, che insieme a Mauro Meazza conduce tutti i giorni, lo sapete, alle 11 il programma 2 di Denari. Deborah, intanto, cosa ne pensi tu del microcredito? Allora, è una bellissima idea perché, come dire, quando si tratta di sostenere delle iniziative che in qualche maniera hanno come obiettivo l'inclusione finanziaria e sociale delle persone, guardiamo ovviamente con favore a tutto questo. In Italia, se dobbiamo guardare un po' al modello del nostro paese, ovviamente non possiamo concepirlo nella nostra testa nella modalità indiana o del Bangladesh, perché avviare un'attività d'impresa con cifre molto piccole non è possibile. Però noi abbiamo una tradizione abbastanza solida, consolidata, perché l'Europa ci ha chiesto di fare anche a noi il nostro lavoro in questo senso, e per cui ci siamo attivati, e peraltro pare che il nostro paese in queste forme di finanziamento sia proprio all'avanguardia anche rispetto al resto del mondo. Quindi insomma, in Italia c'è il microcredito, ci sono anche delle storie molto interessanti. Però è vero che se tu vai in banca a chiedere un milione di euro in prestito, a patto che tu i soldi ce l'abbia già, insomma, te li danno. Se chiedi 2000 euro ti fanno un sacco di problemi. È vero, c'è questa idea, ed è effettivamente un'idea ragionevole. Succede, bisogna andare in banca molto informati, Enrico, come per tutte le cose, per cui se si ha lo strumento della conoscenza si riesce a negoziare un po' di più e si mette anche un po' sotto scacco l'interlocutore che è dall'altra parte. Quindi andare lì un po' preparati e magari con una persona che si faccia garante rispetto all'idea d'impresa che tu vuoi presentare, che vuoi sostenere dal punto di vista finanziario. Sì, sì, no, diciamo che la mia immagine delle banche è... E la canti molto bene, peraltro, anche in una canzone, esatto, infatti. È quella delle mie zie, che adesso non ci sono più, che quando una aveva 94 anni e l'altra 92, vennero chiamate dalla loro banca per proporre un investimento di lunghissimo termine. Un investimento, esatto, ventennale, quindi un po' la mia idea delle banche è questa. E però, guarda, di qui, siccome non voglio mortificare la spettacolare sceneggiatura della tua trasmissione, mi sono portata delle storie di microcredito e te ne racconto un paio carine che hanno come protagonisti dei musicisti. Il microcredito può sostenere un'idea d'impresa, ma può sostenere anche un bisogno di famiglia. In questo caso c'è la storia di Nicola, che ha un figlio che si chiama Nick, che ha 23 anni, è uno studente di oboe al Conservatorio di Pescara. Questo signore non riusciva a pagare gli studi di suo figlio, quindi molto dotato in questo campo, è andato in banca con una istituzione italiana che si chiama Permicro, che agevola ovviamente questo percorso, okay, per le persone che hanno bisogno, ed è riuscito ad ottenere una piccola cifra, 10.000 euro, per consentire a suo figlio di continuare a studiare, comprare l'oboe, comprare tutti gli accessori per lo strumento. Il garante di questo finanziamento, infatti, era l'insegnante di musica di questo ragazzo. Di storie di questo tipo ce ne sono moltissime, come per esempio quella di Rosario, che è diventato liutaio, era il suo hobby, ne ha fatta la sua professione grazie ad un piccolo finanziamento in banca. Sì, il problema è sempre la garanzia. Quindi, esatto, nel momento in cui si riesce a dare come garanzia il talento, il progetto, il sogno, l'idea, qualche eccetera, volta eccetera, funziona. Non è il mondo dei sogni. Non è il mondo dei sogni. Siamo ancora in compagnia di Deborah Rosciani, che abbiamo preso in prestito dal suo programma 2 di Denari, ovviamente su Radio 24. Volevo chiederti un'altra cosa, Deborah. Lui, Yuno, scrive, insomma, ha scritto più volte che il suo sogno sarebbe creare un mondo senza povertà. Io temo che sia fisiologica la povertà nel mondo, cioè che sia impossibile da sconfiggere. Temo anche un po' che insomma, che si regga un po' tutto l'apparato sul fatto che ci sono così tanti poveri, sul fatto che c'è forza lavoro che può costare sempre meno. Le immigrazioni ci suggeriscono queste ipotesi. Viviamo, no? Quest'era in cui la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di pochi e chi è povero diventa sempre più povero. Però sai, in prospettiva, come dire, abbiamo uno strumento dalla nostra parte che ci può servire in futuro, sviluppandolo, ad affrancarci dalla povertà per chi la vive in maniera drammatica, che è quello dell'istruzione. Quindi magari provando a sostenere percorsi di istruzione per le persone che non hanno gli strumenti per potersi presentare nel mondo in maniera adeguata, forse potremmo... Però l'istruzione costa. Costa, e sì, però oggi con internet costa un po' meno in realtà. Quanto meno l'informazione. Esatto, sai che magari non abbiamo da portare, abbiamo un'immagine di molte famiglie in zone molto povere che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, ma hanno tutti in mano un dispositivo tecnologico per potersi documentare. Prima si comprano quasi prima quello che il cibo. Sì. Deborah, sei stata preziosissima. Grazie, anche tu con le tue canzoni, grazie mille. Grazie. Grazie. Noi naturalmente, proprio in questi giorni nei quali si sta celebrando insomma l'arrivo in Italia di Mohamed Yunus, e con tanto di opera composta in suo onore che verrà rappresentata il 20 maggio al Teatro di Fano con tutte le autorità, non possiamo che augurare a Yunus e ai suoi collaboratori di raggiungere l'obiettivo di sconfiggere la povertà globale, di far sì che tutti gli esseri umani possano vivere degnamente, dare la possibilità a tutti di darlo questo colpo d'ala. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti, ora puoi. Volvo XC40, a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.